qui stiamo facendo un blocco stradale alternato, cercando di creare il minor disagio possibile ai cittadini. E niente, siamo in solidarietà col comitato del quartiere di zona che protesta contro la TAB, i treni a alta velocità, che appunto in quanto alta velocità stanno depredando il territorio, distruggendo le falde acquifere, e anche qui sulla Tiburtina, nella zona dove siamo, insomma i problemi non mancano. Comunque la nostra solidarietà è totale contro questo scempio, sia per quanto riguarda le tematiche ambientali che la qualità della vita dei cittadini. E però adesso credo sia giusto che parli un cittadino di zona che spiegherà i motivi ai compagni che sono all'ascolto di questa protesta. Senti, noi stiamo bloccando qua il transito della strada, tanto tra qualche mese bloccherà tutto quanto la TAV perché chiude tutto il ponte di Dolcevara, fa come le pare, già chiuso il ponte d'attraversamento alla Rustica. E continua a chiudere strade e non aprire strade alternative per transito, è un casino di traffico in tutto il versante di Roma Est e le strade sono tutte quante dissestate perché il permesso gliel'ha dato l'assessore Di Carlo e adesso i cittadini sono stufi, avevano promesso degli indennizi, una parte l'hanno dato, una parte no, e adesso anche con l'unità che abbiamo fatto col Comitato di Lotta per la Casa che occuperà gli appartamenti sfitti lasciati in fermo dalla TAV, e adesso faremo un fronte che unifica tutto la zona est di Roma, i disagiati dal traffico, i disagiati dalla TAV, e faremo un fronte che imporrà a questo assessore che non rispetta nessun principio di democrazia, non c'ha nessun rapporto con i municipi, imporremo la volontà popolare, che è quella veramente di essere considerati dei cittadini che hanno i loro diritti, che possono essere calpestati da entità economiche e da volontà politiche reazionarie.